E dopo i titoli dei telegiornali, questi i nostri titoli, le punture della zanzara. Washington, incontro tra Fini e il vicepresidente americano. Dalla Casa Bianca annunciano di aver tagliato i fondi per la ricerca di Bin Laden per concentrarsi sulla cattura di un altro nemico degli Stati Uniti, Guido Bertolaso. Esercito. La Russa apre ai militari gay e fa disegnare le nuove uniformi a Dolce e Gabbana. Ancora esercito. La Russa apre ai militari gay. D'Alema propone di spedire immediatamente Vendola in trincea. Fiat. Montezemolo dichiara: non abbiamo mai ricevuto un euro dallo Stato. E per dimostrarlo ha fatto vedere i maglioncini che indossa Marchionne. E poi c'è Morgan, naturalmente. Sanremo, problemi dopo l'allontanamento del festival di Morgan. Il Partito Democratico propone che il suo posto venga preso da Romano Prodi. E chiudiamo con lo sport. Sollievo per Galliani. Quando Berlusconi ha detto non serve, non si stava riferendo a Mancini, ma a Casini. Bene, queste le nostre notizie, le notizie più importanti della settimana.